sono abituata a tutto, pure al fatto che non ti ho più accanto. E anche se questo è un giorno perfetto, io ti porto conficcato nel petto e ti dedico ogni traguardo, ma senza te sono un re col castello distrutto. Sarò forte, te lo prometto, fuori sorriderò mentre mi allago dentro. E bisogna fare finta che la vita vada avanti. Devo scordarmi certe frasi, nessuno me le dirà più. Sto scordando la tua voce, allora userò la mia per trovare un po' di pace. Niente più favore. Canterò per chi è come me, anche se ho tutto io non ho più te. Con la tua assenza io sento stasera la solitudine di una regina. Nei miei pensieri come allora ridiamo per tutta la sera. A quei tempi Dio esisteva, senza te non sono in me. Da qualche parte siamo a un bar a bere un paio di caffè, ma questa volta con le rughe. Niente più fa.